pronto, Rosmarino, Rosmarino. Cuffo triste. Ehi, you. Attenta, cuffetta. Pronti sono a mangiare i piedi, l'agnello. Attenta, cuffetta. C'è un attimo. Ehi, you. Cadetta. Ebbè, cuffo triste. Che facevi da Gio Maria? Da Gianni Maria. E lui? Ma sta zappando sta. Ehi, sotto la buddha viga. Hai visto il camper che mi ho comprato? Te l'ho mandato. Ehi, bello, c'è anche il garage quello. Come se... Luca, dica. Luca, per il bollo. Luca, lì di bollo. Luca Rosso. Ai pronti sono queste gambette. Più bene, io grazie, ti riposo giù, ciao, bene. Però ci metto il ketchup sopra, che sono croccantelle. Faccio pure un ketchup, che tu piccate, piccate, non ti piace a te. A brucia... chiuso. Ti voglio vedere in un letto, saluti, quando ti trinciano in giù. Mi che non ti arrivi il bollo. Divelo, grazia, divelo. Manco al mare sa stare, facendo il barroso, si è cotto. Famone! Ma mi ha avuto a mangiare un'altra graviglia a pucciolanchi. Infatti un pezzo di bene vi manca. Ehi, hey, you! Ehi, attenzione, canale 45, cambio. Sì, ci vuole la loa, ci vuole. Qua nel Vasconi, e sotto a casa qui, c'è quella pianta grassa, la loa. Taglio un paio di pezzi quella e te la faccio. Allora quanto va di messa. La loa, non la loa. Vuole fatta bollire, lo sai. Ehi, la loa, qua nel Vasconi ce ne sono 3-4 piante, viene una manna butta. L'accade un signore di una tagliata un po' di becci da una buglia e se ce l'ha pucciato. Quella è buona, amico. E la puoi anche bere, lo sai. Puoi farti anche gli infusi. E fai come ti chiedo, sei confuso, invece puoi essere la rosa a pucciolare a te. Qua l'hanno messa apposta, anche Paletta l'aveva piantata, una piantina che c'avevo qua, l'ha messa giù, adesso è diventata grande. Ma niente, bene, se in Italia un pezzo si ce la buccia. Ma si vede, è buona. Per tutto si usa, allora. E va Luca, si va buona, i gusci. Tutta se la deve spalmare, anche le chiappe si è ossionato, solo che quelle non le ha messe nel video, capito mia? A chi la guardanga? Questa guardanga, bobo, ma è via la spiaggia dei nudisti. Ah, la spiaggia dei nudisti di Sorso, quella. O sai che a Sorso c'è la spiaggia nudistica. No, ho messo questa crema adesso per le bucciature, vediamo la abbassato il dolore. Fino a sbagliare non prendere la vasellina. La lasomi ci vuole. Vai, vivo, andave, la loa, andave, chissà, ti quasi un toccasano, proprio in giù, e una di noi è nuda, domani non hai venuta. Vai, la loa te la dazzini alle Hawaii, quando arrivi alle Hawaii ti quasi la loa. Lui e basta passare il sassarimeccio e le Hawaii ragazzi vivi Luca caga mondani Luca l'ha ragostato. Vabbè, l'unico punto non ho messo la crema è lì, non pensavo che tanto sai il bene a muso di le gambe piene di sabbia, ma ci m'ha fottito. Anche sotto l'ombrellone ti bisingheggia, si vede appena bianco. E tu, anche se ti metti sotto l'ombrellone ti bisingheggia. L'aria stesso, mi. Vero Luca, flippero. E lui? c'è la Gio Maria in costume da bagno. Sì. Come la costume la marinara a righe, celestino e bianco. Eia, con i frati c'è il calzettone. E cuffietta. E a squallido ho trovato l'hai, Luca Manicomio. A cani? Ah, torre squallido. Il mare non l'hai avuto. Negativo. Ah, ma che è il periodo giugno degli squalli. È vero. E io. E beh, Rossito è Luca Flippo oggi, della gravizia. E beh, senza... Ah, ma che se vieni qua a Piazza Vittorio, vieni qua una piscina enorme, quindi la piazza più vedo, passo con noi. E allora ci volevo le chiappe a bagnomaria e no? Io se non venire a rifare i baciati, ti hai facciato correre a ambienti, no? E parlato un bel dubbio la stradita, il cornicione ne ha giù l'azienda solare, ci ti picca da massa. E questo è quel tipo che è morto, gli è caduto un pezzo di cornicione ed è morto. Guarda di grazia. Lì l'anno scorso nello stesso palazzo, nella parata, non so cosa aveva abbigliato un pizzino, no, non mi ricordo bene. Ove è morto un pizzino, ma te sei. E lì ci avevano visto dopo. Quando passo in città, anche dappertutto, oramai i ribalassi vecchi devi stare attento, se passi più fuori ad un marciapiedi forse è meglio, sono con bene, e no che non mi attessimi, ne varani, li messi così, la straniera, bacia nella tenda, intendo, boom, una la ringhiera, un bel... paraspigolo bello grosso di intorno che calcio e struzzo stai parlando io se ma un bel domani si mi cazzo in massa ma è colpa tua mia cosa ci abbia ammazzato la seconda colpa mia colpa di letto boccolare me la tutta a me e poi sta chiamato i pompieri sono venuti qua e hanno sprostato proprio quello che ne stava accendendo. Però è tutto così, e la gente ascolti, noi all'Ente Popolare siamo andati. La domanda l'abbiamo inoltrata, ci hanno risposto che devono venire a fare tutti i lavori. E me ne sono andato. E ci sono già andato tre volte, ci sono già andato, anche per il catrame della tromba delle scale. Mi hanno risposto che già lo sanno che devono venire. Come ti vi piace il vizio, che andiamo a massa a caccheduno per un baghizzi. L'ente popolare, per il quartiere, la ferrocia, 400.000 euro disponibili per fare tutti i lavori del quartiere però, che non riescono a contentare a tutti, hai capito? Qua devono rifare le facciate perché ne so fare una pezzi, due tricornicioni, l'intorno a Gorani Vatta, a cazzo di cane l'hanno fatto, che si è impresa che l'ha fatto. Quando le erano in venti io c'ero, l'ho visto. Dopo si vedeva il ferro, non l'hanno né scrossate né nulla, non hanno buttato manco un prodotto al ferro, è da ben tunicato. Hanno tunicato in alto, così sulla ruggine, il grosso. Poi il fino nelle pareti hanno buttato la retina e hanno intrecciato il tonaco grosso. E buoni, manco il tonaco fino. Grosso, è da ben la cucina dorata, ma da rocciata, tutto qua. Cosa ci vuoi fare? Cosa ci vuoi fare? Non che buono, hanno provato un po' di bucare lì. A chi vuole di Napa e trovare quanto ci dico, è impresa. Ma ci mettono il ponteggio quando devono fare il pezzo mio. Quando l'ho preso, sembra un po' su io. Mi piace il prodotto, già ce lo dovrei avere. Anche io, e le bacio il prodotto. Quando non ci sono, tanto si andano a rigua 3 mesi o 5. E se no fate una cagata, da poi 2 anni te ne vanno a dormire in terra. Almeno il mio pezzo. Prima per fare un ottimo lavoro le devi dare il convertitore di ruggine a ferro, quando si asciuga gli dà il prodotto, capito? Allora sì che fai un ottimo lavoro. Mica lo so, ma ti faccio dei capannoni dove lavoravo, non me l'hai fatto tutto io. Abbiamo chiamato il cipito e abbiamo fatto la vata cingosa, una cagata. Hai turicato in nata a Riferri. Il marco di Ughetti per passare era tutto copiato. Quando ci chiamato la principella, di tu, guardi qua, sto scoppiato, se l'ha fatto 2 settimane fa. E mi ha detto, è il prodotto passato lì là. Ah boh, io ho visto che macchina c'aveva dei bidoncini, però prodotto non lo so io se ne ha passato, io non è che ci ho fatto caso. Ma ha detto, dammi il mare peggio, mi ha già della scrossata, il prodotto non ne l'ha passato. Chi tu l'ha dato il prodotto e sento chi tu si l'ha buttato a casa sua, hai compreso? Allora ha scrossato il muro, ha visto che non è passato, lì domani è sceso quando stava la porta. Gli ha fatto un casino di voce, si l'ha cotto pure, l'ha detto adesso immediatamente mi porti tutti i bidoncini dei prodotti che ti ho dato, se no ti so così non senti buio. E a Santa Sassa ne ha parlato tutto il materiale, chissà animali. E dalla porta mi ha detto a farlo io, e l'ho fatto io. Ma sì, molti, la maggior parte danno solo il prodotto sulla ruggine, invece per fare un bel lavoro devi dare prima l'altro prodotto, capito, il convertitore, allora sì che fa un bel lavaggio. E dopo sopra il prodotto, quello in polvere che si mischia con l'acqua o col suo liquido. Allora io lì c'avevo dei bidoncini gialli, all'interno c'era una busta e 2 bottigliette di roba chimica stesso, per miscelarla con quella busta e rimaneva color cenere quel materiale. E svuotavo quello, lo passavo con un pennello, lo passavo bene in tutti gli spezzoni di ferro che fuoriuscivano tutti rugginosi, una volta li avevo spazzolati con la spazzola di ferro. Gli passavo quello lì lo potevi passare direttamente, non c'era bisogno di fare altro, però una spazzolata la dovevi dare. Lo spazzolavo col pennello, lo spolveravo, lo lavavo con un secchio e l'acqua lo dava asciutta, quando era asciutto gli passava un prodotto. E l'indomani vinto un incavo sopra. Ecco, e vai a fare a questi scoppiati, ma qualcuno se ne è scoppiato. Non se ne è scoppiato neanche uno, se tu scendi e guardi, è perfetto. Sì, già ho capito quello che stai dicendo. C'è anche l'acqua, quel prodotto in polvere, che lo mischi con l'acqua, lo tieni un po' denso e poi glielo passi a pennello sui ferri. Capito? Così è il lavoro che fanno la maggior parte. E c'è a gatto rimane. No, lì c'è il suo diesel. E dentro all'interno di questi bidoncini gialli ce ne dovrei avere uno in garage di quel bidoncino completo a chi mi era avanzato chissà a me. E mi ha fatto 2 capannoni, no 2 me ne erano avanzati, uno l'avevo utilizzato in campagna prima di tunicare a casa di mia cognata, perché avevo lasciato fuori che si vedevano nelle architravi il ferro con le staffe, perché è sceso il geometra per controllare, no? Se l'ha fatto tutto a opera d'arte. E quei ferri io non li ho intonaccati, li ho lasciati esterni apposta per vederli quello là quando veniva. E lì allora l'ho usato, quell'altro ci avevo. Sì, perché te l'ho detto, ce ne sono 2 modelli di prodotti per i ferri. C'è quello all'acqua, che lo mischi appunto con quello in polvere, però lo usi con l'acqua. E c'è quello col suo additivo liquido, capito? Ce ne sono 2 modelli, ma quel lavoro che sto dicendo io è differente. Il lavoro che sto dicendo io, prima le devi dare il convertitore di ruggine al ferro, che è un prodotto trasparente, poi rimane tipo latte, capito? E quando infatti il ferro poi si asciuga il prodotto rimane tipo lucido, poi li dai sopra quel prodotto che stai dicendo tu, capito? E poi li dai il ferro, l'intonaco, capito? E ma quando i ferri sono a filo di intonaco, quei ferri non stanno lavorando, sicché se devi dargli è pure meglio, capito? Perché non stanno lavorando, quando li trovi a filo di intonaco non stanno... Ma io quelli li ho lasciati appositamente apposta a vederli. E quando veniva il geometra con l'architetto che è giunto, capito, il progetto l'ho fatto io. Sì, ho capito. Ma già te ne avevo tagliato i silverri. Perché non ci fanno più niente. Quando sono così a filo non ci fanno più niente, non stanno lavorando nella struttura, capito? Anche se nei tagli non succede assolutamente niente. Anzi, recano danno perché formano la ruggine e essendoci un velo di intonaco si spacca subito poi col tempo. Tanto pare si cannire e mettere un centimetro e mezzo di intonaco. Allora sì. No, ma intanto lì poi, un indomani che sono passati quelli, io lì dovevo fare tutto il giro del marciapiedi della casa. E dunque arrivavo col marciapiede e lo copriva. Dunque gli ho passato lì il prodotto e poi ho messo le tavole e ho fatto un metro di marciapiedi tutto in giro alla casa. Ci ho messo rottame, ghiaia e poi ho fatto il gittito, capito? E niente, e lì avevo buttato un po' di calcestruzzo e poi le pietre, capito? E poi ho fatto tutto il marciapiedi. E niente, mica ne lo tagliamo, la giornata di stato lo si vedia da pure. E sopra invece gli dovevo fare tutta una serie di cornice per mettere i mattoni, come hanno messo i mattoni qua, questi mattoni in costo, li ho messo il catrame tutto in giro, poi ho messo dei forati da 10, i tunicati e tutto. E poi sopra ci ho messo quei mattoni russi, là, in cotto. E niente, e andava. Invece le gabbie, prima quando l'ho costruita, le avevo passato tutta la ruggine alle gabbie, quelle che ho messo in terra. E il ferro vuole nuovo, invece mettono ferro vecchio che ha preso tanta acqua. Ecco perché succedono quelle cose. O gli dai l'antirruggine, o gli dai un ferro nuovo. In molti cantieri c'è il geometra che controlla se il ferro è nuovo, senza ruggine, capito? Olu. Ho fatto quel lavoro che ti ho detto, quella tipa, Baccaridae. Brava persona, però questa tutta la pannella siamo rovinato perché la pittura era al plastico. Io penso quanto mi hai detto tu, però devo stare un bel attento, ero proprio, guarda, a un bagno di sudore, stavo sperando. Doccia nera. E una parete te la sei arrivata in un'ora, e manco. Un bastone ne ho piazzato anche. Vabbè. Ho fatto due mani, perché la prima mano non l'ho fatto bene. Cazzo, però mi rubiamo tutto quanto la pennellessa. Ah, pennellessa le fa. Luca! Stamattina mi ho cambiato, sei che nella bulgibbia in camera da letto. Ne ha giocata tutta, paletta l'ha lavata sul terrazzo. E poi gli ho cambiato le secche rotte. Una volta che era asciutta ce l'ho infilata. Mezz'oretta ci ho messo. Ehi, vabbè, va. Gli hanno rifatto il culo, poi gli hanno dato il bianco in cucina, l'hanno fatto una cagata, perché si vede che era una cagata, e allora lì invece di mettere mattone ha voluto fare questo colore tipo grigio, quasi quanto la cucina, al plastico. Per l'acqua, gli schizzi, quella roba lì. All'interno, in cucina, burla pure. Avare i muri non respirano. Stavo in giro un muro pieno di grasso, a razza di capo. Diglielo su Luca. Non è il massimo mettere plastico all'interno. È per l'esterno il plastico, per l'interno non va bene, chissà non ne comprendi nulla. E tu più poco, carissimo manicurio. Hai detto ragazzi, ci faccio il vapore, chissà cucina, vedi i muri tutti sgoccioletti. I muri cucina devono respirare, ci vuole il traspirante, ci vuole. Capito mia, diglielo tu, Luca, maestro. Non lo sa lui, già lo vedi quando fermo i travagli, già lo sa Luca, però sai cos'è? Se lo battono in casa ti usa questa, purtroppo, grazie, cosa vuoi fare? Ma tu gli devi dare consigli, quella gente che non capisce aglio per cipolla. E un consiglio glielo devi sempre dare, non si avrebbe rovinato la pennellezza. Adesso la pennellezza non era in conto e ci ha rimesso la pennellezza, vedi? Dai, mi sto pensando che vada questa comunione, dai. Ok, e chi ci deve scomunicare? È una parente di Marina. Una comunione? E chi di comunione aveva visto? Io! Anche le cresime? Penso anche, penso, boh. Ammaggio le cresime, so. Ah, va bene, dai. E mani a pizzi brighi, dolcetti solo ci sono. Io mangio sempre a cu. Piena di ribusciacca, le buone di labito, così c'ha le tasche grandi, ce ne stanno di più. Vero, Flipper? Piena di ribusciacca, le di dolcetti alla crema. Mettici le pizzette, quella roba lì, mica, non ti brucia la gianchetta. Buon avvero, ieri avevo mangiato due pizzettine di quella rotonda, buonissime. Tu mangia dozzi, a tutti dimmi. No, io non ci vado più, c'è nulla, le quattro, il barbecue del furgone. No, oggi sono pasticcini, li ha portati mia figlia che si è fatto un giro a mare. E dopo ha visto quella pasticceria e li ha presi. Me ne ho mangiato solo tre. Per mano. No, gli altri me li mangio due o tre stanotti, là, dopo cena, mentre mi guardo la TV, un caffè espresso, con la crema. E lui, Bacchi si è già pitturato la serranda, ha chiamato lo fraidaggio, l'hanno pitturato la serranda. Sì, ero pugliati là e battigni lì la serranda, ve l'avevi fatta giù. Ho visto un signore, l'altro giorno gliela stava attingendo. Ma è il suo il garage o in affitto? No, il suo mi sa che sia. Sì, aveva un pugliati a te o a Luca, ma neppure. Beh. Devo ti dire. Beh. Bisogna rimproverarlo, non va bene, prima quelli della frequenza, poi se sono impegnati bisogna rivolgersi agli estranei. E allora, e poi quando servono i favori ti chiamano subito, così è caccia, si va così. E allora, bisogna passarli dici, quando entra già gliela canto io la pistola, ricordamelo. E allora, ma le cose vanno contraccambiate, non lo sai, grazie a Gussi. Io vedi Gianni Maria chiama a te ed è a posto. Cosa vuoi ti dica? Ognuno guarda la propria tasca. Ma, o se no si rabbudia a Vaeddu quando non farà in campagna, sapintava i vivi. A fa orario, ma io in garage me l'avevo tinta io una decina di anni fa, è sempre blu, anzi un poco di più vanno verso, ma mamma migliora, viene un secchio e basta ricopre, esce sempre blu, non si invecchia mai. Vabbè, la tua perché è riparata anche, la forza non si invecchia. La mia è sotto, non è migliaia, ma... Drento, sopra la guida, gli ho messo il grasso, 20 anni fa, tu a mai deve ancora. E come ti puni la macchina in garage e fa la trombifura, ma te si gosa. Dura un bel. Il pavimento è che mi nera brinchegni, un pezzo, e parla dice ma cosa mi ne ha tutti, non è buon come mattone. Io voglio abbigliarmi, si mattone rui, rettangolare, dice ma cosa mi ne ha tutti. È un garage, se troviamo altro. Ha giocato, visto che nella licenza ho preso un po' di sabbia, cemento, grassottello, glielo ho messo e l'ha rintrecciato la riga. Allora quando ne esce in l'altro posto la stessa cosa, cosa me ne ha. Ma vabbè, dai, io sto chiudendo, dai, ci aggiorniamo, dai, ciao. Ciao. Non mangiare molti dolcetti, che ti fanno mal di pancia. Capito mia, vabbè, ciao. Divertiti. Ciao, ciao, buon divertimento. Arriga un pezzo d'agnoni. Aspetta 2 minuti, mi assento, Luca. Eia, dai, anch'io, dai, ma dopo. Eia. Bella beh. Cerca abbassarmi le voci, mi hai fatto spaventare. Tutto un latte di soffigito. Boh. Allora, ma ti fossi in più latte. E già venuti su vicino a flippero. E quel latte che c'ha lui non basta. E allora? E oggi non sei uscito. Non sarai maculo. Con questo gaggio non sarai maculo con questo gaggio. No. Nulla, tutto a casa, tranquillo, all'ufresco. A dormire tutti. Mamma ha mandato anche in fotografia, conti vi là, a te ne mando. Oh, te ne dire conto. Ehi, allora si può mangiare salucci. Cazzo, il mare no. Casareggio, mira, 36 gradi oggi. E tu andai al mare. E tu a chi sei andato al mare? Donna Ciuca. Una. Ma anche ramici, no. Quando venne in occhi umani andava in mimma di busto l'ombrellone e non dal razzo. Ah, e ti sei assolente non dal razzo. È fresco meglio. Fa salarietta fresca. Con la sdraio a lettino, non sai quanto si sta di bene. Ma la bibita fresca. Si passa la rietta, ya. Zanda, ma rietta, arietta fresca, per male che oggi non finisca. Strano, si passa la rietta, io che no. È vero che sono chinato ed è fresca la rietta. Ogni tanto si ha già sentito, quando si filmava la rietta, il calore si intendia, però quando pompa l'aria si sente il freschetto, si sa dove. Vabbè, l'importante è che si sa dove. Davvero. No, che era un bel ricatto. Da casa ha già stesso una fettola. Già si sentirei quella fettola stessa, ecco. Per cui siamo bene, ecco. Saliamo di anni, lo saranno. No, si può uscire con questo gaggio, no. Gatta, li vorrei tirare bene. No, con questo caldo non fa. No, io la ventola qui, che c'avevo in cucina, ne era più smontata. Ha giù buttato un lampadario, lì. Ma vi è stufato. Ma io faccio la ventola manna, La tua era minore, ma la mia era manna. Certo. Per cui si incubari infatti poi rimane proprio al centro di Ruretto, di immaginare la rietta che manda, non è forte forte a chi, se no quasi male, la giubbotta al minimo e già ci trombitano a stessi. C'ho anche quella ventola a pedana lì appunto in altro mobile, mamma, ma c'è la pompa di calore, va accesa la pompa di calore, camera da letto. E cameretta ci sta di avere, che l'aria è fresca e ci vuole già tutta. No, che l'ha già attesa, l'ha già attesa a riquattro ed è ancora attesa, infatti c'è la cameretta a mezzo della TV e si c'ha di vedere, non c'è caldo caldo perché manda la letta bella, bella fresca, dai, e ci raccappa, cosa vuoi fare? Da voi tutt'altro magari apri i vacconi sulla ventola, sempre si fa l'arietta, se non entrare a casa torna. Hai a casa già si intende ogni tanto quando c'è sta quell'arietta, però mia vai a pompare un po' di venticello ed è più fresco. In cucina qua c'è la tenda solare abbassata, è tutto ombra, è fresco già si sta di vetta. E meglio così va, meglio così, facciate una già fresco a chi. Io lo caldo lo soffro maledettamente, catta. Magari quando ero più giovane, già non resistia lo caldo, quando fatti a campeggio, ma va caldo, catta mi fare. Io poco subito si vado a mare per pochi risori. No, a mare va bene, dalle 6 in poi che il sole non ti brucia. Ero mangiato un ghizzo, specialmente alle 10, 10 e mezzo, andava. Ma dalle 10 e mezzo, specialmente alle 5, 6 e mezzo ti brucia. Chi ci ha bruciato? Infatti Luca, è tutto bruciato, mi ha mandato la fotografia. Stamane mi ha mandato che era mezzo straginato della sdraia a faccia al sole, a faccia in aria. A stasera me l'ha mandata con l'anca al russo. Vai, saluti si lamenta. A fine, ciao ti si lamenta. Le mie sono sette bianche, tranquillo e pacifico. E sono tranquillo. Ma vi ha giudito così fa di male, noi che possiamo avere la vita. Fa di male abbronzarsi, così ne abbronzarsi, così a ustionarsi, così fa di male, ma buffonici. L'usore va pigliare da piano a piano, non tutta un'ora così, ti batti i gozzi e poi fa male. Cioè avrà detto, saluti, mi dà una risposta al Zidrone, a me mi ha messo una volta, mi sarà prima, mi ha dato. Allo credi, piazza, siamo contro i bigli, i risori, e fate pure a mati capo, a secchi, piazza. No, io prima non lo soffrivo allo calcio, ma vado soffro maledettamente. No, infatti io... Allora fecero, a risori lo fecero, oh, devo essere sempre all'ombra, e ciò che tranquillo, capito? Senso che hanno abuso da voi magari intendere conseguenze, capisco, mentre è Luca adesso. Ah, ma ciò di intendere il gioco. La prossima volta si impara a pigliarla poco a poco. Già si è passato la pomata, dici, e è andato a una comunione, mi pare, di mangiarito. Oh, è invitato. Se ci ammazza sei uscito. E se avessi per flipper ACC sarà stato in mare di burro, sarà stato in mare di burro a bronzo di chi si abbassa di cui fare che fa. E allora a caccia era con un fucile da pesca, per carità, chi si abbronza il terrazzo invece andare a mare. Sì, boh, se la sdraio si abbronzaglivi, davvero. Ma il mare, gatta, quando abbronzaglivi ti faccio ruio, e te lo zocco, la rotti, uia. Ma è mai una ultima, una voce mi è capitata. Ma non mi è capitato più, così che bisogna stare attenta a queste cose. Gatta, te lo gridati la prima, ya. A me pure aveva fuggito la bocca, ed era moglie sempre, la di me, la mente ancora. E quando mi sono uscita la sera, arrivo a casa e ero gotto. tre pareti mi aveva dato, pensare dentro mi tremava. Boh, mi veniva un freddo così. No. Bisogna aprire a poco a poco, se è possibile avere chissà antibronzante, come cavolo si chiama. Se l'avrei e non ti brucia, capito? Bisogna essere attento a queste cose, fare così, ma specialmente tanto una parabete delicata. Io quando pigliavo un po' di sole si mettavo niente, pareva un negro paria. Divento, divento. Quando ero più giovane che stava pure tre mesi che vi a Platamona, trovando la tenda canadese, pareva un negro pareva di Cantieri Uniti. Ma, però prima si voleva fare, ma l'anni non veniva, che si voleva fare. Ah va, manco ma fa l'idea. E poi anche l'età, capito? Magari tu anche fai fare su sabatologia, pure io se c'è dai, ma si pare con l'idrore che faccio venendo a mare, e poi tu si offre un bello quasi, ti puoi mangiare se io sono vicino a mare. Ma capponimi l'ombrellone, no? Saranno, ma quando era giovane è già tutto l'altro discorso, capito? Non rimane vero ai giovani. Ah, ma come delle chiappe freschi. Gli appaggi bene, un po' d'aria di mare, un faggio d'ore, ma un burato di strade così, neanche a me non mi piace più. Un faggio d'ore si può fare, ma non di più. Io pensavo invece che rifarà di campagna a tagliare l'erba, e invece non vi sei parato. L'erba l'ha tagliata domenica passata, si è mandata, si è fatta una bassigliata, l'erba che è accorciata ha fatto prima, l'ha tutto ripassato, un paio d'ore l'ha fatto domenica, l'erba è tutta tagliata l'erba, si è aggiunto bruciato. Chissà chi vera montunata un montone, ha messo un fuoco. Se no, ci ho toccato un po' in centro la campagna. Ma la sorte che tu cammina, chi per l'erbetta secca e si è tagliata, puzzinoso. Allora già l'avevo studiato con la bomba, un paio di secche già lo spento. Però l'ho tutta bruciata quella che c'era. Già lo sai che non si può bruciare adesso, Già lo sai che non si può bruciare adesso, magari uno, se c'ha magari a poco la tabulana va bene, ma a bruciarla così non si può bruciare più, capito? Purtroppo, va meglio così, dai, almeno è più tranquillo uno. Già lo so, ma va via un 2 litri di miscela e 20 anni. Ma non la passina così, ha detto, beh, avanti, da sempre buoni, fa sarà una bambata. Se si è giocato in alto, l'ha lasciato un pezzo di bambino acceso, ha fatto boom! Cosa va poi? Su 5 minuti ha bruciato tanto vela, perché era secca, capito? Adesso che è più bello, però in terra era gamminenni, c'era la rennimi, a chi terra aveva l'erba secca che aveva tagliato da prima, capito? Ho fatto pensare di arrastrellarlo tutto in giro, vabbè, non c'era nessun senso nulla. A chi ti crede poi c'è la brucia? E un quarto d'ora non veniva più con l'erba, tutta bruciata. Sarò grigio. E poi con un cammino in pieno, c'è un grigio, l'erba secca. E poi specialmente se fa l'arietta, c'è da stare, è pericoloso che fuggi a burro, capito? E quando fai roba secca vicino, è pericoloso burro, capito? Io stavo ben attento a queste cose. Cazzo, mi sono delle leggi severe a mamma. Cazzo, saranno, e allora ho brutto lontano, nonno mia va, domani, cosa è da domani, devo fare in campagna, a chi è diviso la gru è un beaccia, da tre parti no, è tutto molto zappato, però de diviso la gru non l'ha molto zappato, dice che è cresciuta torna l'epa, e la posso tagliare. Però la taglio la seguivi, capito? No, non li brucio io, no. Cazzo. La tasso gli affrabbicheati, li pongo in un posto di poco repa, no, a tagliare il tronco dell'albero. La tagliamo si pongo proprio in un tronco. C'è la fratichezza con l'epa. Ha molto zappa da buio a settembre, ottobre, non molto zappo, però va a parecchio, non è molto zappi. A chi lei per rifarsi via la Lazio per mantenere il terreno umido, capito? Già lo so che la mantenere un freco. Ma siccome c'è la erba di altre volte che siamo scesi, magari oggi pulito un pezzaretto così paoletta, i giardinetti dove ci sono i fiori, tutta che serba da giardinetti, nella buca a mano, la buona, la carriola e poi se la lampava che già. E vera che serba, compreso, vera. No, l'altra che si abbiamo tagliata, la tutta trinciata lì in terra, ma chi sa va, anzi un bel poco si era avventurata a rovento, praticamente l'ha immaginata con la seconda abbassata, non se ne vede nulla. E niente, ha di bruciato chissà ma cosa, va via, se tu di trimicella e pintiati. E tanto, ma non la patina l'ho bruciata quella che c'era. E beh, okay. E al macchia pulita e sei tranquillo, là. Anche la campagna, la vuoi sapere, deve venire pulita e pure un marisetti, eccetera, capito? Cato pulita, lo bisogna senti, per cui la pianta è più tranquilla pure. Aspetta che abbasso la controfinestra paoletta, che è pure... Lì però, Luca! Ehi, eccoci qua! C'è la tua sta controfinestra! Pulsantino, fa abbassare il freddo ma pulito, se l'ha già abbassato. Ah, ci sono andato a Filippo, non l'ha rifugio, deve essere ancora a cura moglie, deve essere. No, che mi pare che è in casa azzurra, c'è la sorella va a vedere con me, in occhio, con Luca Marcomio, prima di scizzi. No, stamani mi ha già mandato le... 4 o 5 secche della voglia per camera da letto, ne l'ho levata, la lavata paletta e ho cambiato le secche, gli erano i fasciati. Si è ora da punire tutto a posto. Oh, ci vantaggi, San Marino, già mettiti, ha chiamato la voce, Graziano! E poi la chiamata di Parigi. No, stamani non ha già acceso, se non prendimi questo travaglio della volgibile. Oh, no, ne l'ho levata tutta, l'ho messa nel terrazzo e paletta, l'ho lavata con lo sgrassatore, la ributta asciutta, ho cambiato le secche rotte e l'ho ripiazzata. L'ho già acceso, ma... Il PMR per nessuno, consente in un 43, anzi in un 33, vero in Portogallo, pare anni Sassari, pariani. E faccio un paio di chiamate, chiamano inteso, ma si è lasciato un poco, da poi era consente da un canale all'altro, e vera i portoghesi e gli spagnoli, vera. I francesi, virali, ti avvino un po' di propagazione, era fucente, ma non mi è vero, era simpatico, quasi la metà, era una manco quattro, mi pare, manco vinci. No, io, allora nemmeno ho giù finito, o a chi ha già citato, ha asciuttato la volgibile, pure era un terrazzo, poi la giù infilata. In due volte a me dai, se ne ha ributto prima o poi, e da poi l'altra si è infilata a 3 a 3, a chi tutta il pari, a sala sopra non ve la vasiano, che pizzante. Beh, infatti. Dai, grazie, ti assento un quarto d'ora, dai, gli attacchiamo dopo. Ok. Già acceso qua in cucina, ok. Ebbè, bello bene, Franziano.